deep, deep down. Ora sì, guardami, vieni qui, qui vicino a me. Adesso è momento giusto, adesso è momento vero. Adesso sì ti posso chiedere e stare più vicino a me. Deep, deep down. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Dentro di me deep down. So che tu deep down già non sai deep down. A me me deep down. Cosa sei deep down? Tu per me deep down. Deep, deep down. Dentro di me deep down. Amo te deep down. Solo te deep down. Amo te deep down. Momento giusto, e questo è il momento vero, e questo è il momento tremendo di stare più vicino a me. Deep, deep down. Solo tu deep down, tu non sai deep down, deep down.